aumento di peso, sono un maiale, aumento di peso, sono un maiale, aumento di peso, sono un maiale, aumento di peso, dimmelo, che vuoi un tappo, dimmelo, che sono grasso, dimmelo, che sono un tappo, dimmelo, che vuoi un grasso, il piacere della carne, il piacere della carne, il piacere della carne, della carne, della carne, ho il corpo coperto da setole, rotolo, rotolo, rotolo, nel fango, rotolo, rotolo, nel fango, rotolo, rotolo, nel fango, voglio il potere delle mie spalle, voglio il potere delle mie spalle, rotolo, rotolo, nel fango, rotolo, rotolo, nel fango, alla donna il maiale non piace, ma del maiale non butta niente, anche all'uomo il maiale non piace, ma del maiale non butta niente, sono un maiale, mi piace il fango, sono un maiale brutto bastardo, sono un maiale, mi piace il fango, sono un maiale brutto bastardo, seguimi e seguimi, ti piace il grasso, seguimi, ti piace il nardo, seguimi, seguimi, ti piace il largo, seguimi, seguimi, ti piace il grasso, sono un maiale brutto bastardo. Il maiale non ha niente da temere, con i suoi peli fanno spazzole anche in Cile, con il suo sperma fanno il burro cacao, tutti i bambini se grugnisce fanno ciao. Sono un maiale, mi piace il fango, la pelle di cuoio quando ti guardo, alle ragazze regalo la coda, sto nel recinto con la mia scrofa. Il piacere della carne, il piacere della carne, il piacere della carne, della carne, della carne, tuma tuma people, tuma people, tuma tuma people in the sky, tuma tuma people, tuma tuma people, tuma people in the sky. Il piacere della carne, il piacere della carne, il piacere della carne, della carne, della carne. Sono un maiale, mi piace il fango, sono un maiale brutto bastardo, sono un maiale, mi piace il fango, sono un maiale brutto bastardo. Seguimi, ti piace il lardo, seguimi, ti piace il tappo, seguimi, ti piace il grasso, sono un maiale brutto bastardo, sono un maiale, mi piace il fango, sono un maiale brutto bastardo, sono un maiale brutto bastardo, sono un maiale, mi piace il fango, seguimi e seguimi e seguimi e seguimi, dimmelo, dimmelo, dimmelo, seguimi, dimmelo, dimmelo, che vuoi un tappo, dimmelo, che sono grasso, dimmelo, che vuoi un tappo, dimmelo, che sono grasso, tuma tuma people, tuma people.